you step aside. The new girl in town has a guy on the string. The new girl in town. Hey, look, she's wearing the ring. I can't stop crying, and so am I. Eccoci qui, questa volta veramente. Ciao a tutte, benvenute nello spazio digestivo del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa. E dopo vari intoppi microfonati e dopo l'estate un po' di più, siamo tornate. Siamo Federica e Samantha e questo è Quando eravamo pelose, ovvero storia di donne senza peli sulla lingua. Sì, sì, sì, sì. Bene, sì. Quando eravamo pelose è un incontro di idee diverse e sentimenti comuni, di immagini e di colori, di suoni e di parole. Più semplicemente un insieme di storie raccontate da donne su altre donne, sempre senza peli sulla lingua. Storie che hanno saputo, di donne che hanno saputo lasciare un segno indelebile nell'immaginario collettivo. E certo, che hanno influenzato e continuano ad influenzare intere generazioni di altre donne. Io non rappresento niente. Io sono la rappresentazione. Ma sì, è tutto mescolato. La vita, i personaggi. Allora vuoi dire, sì, ma allora è tutto falso? No, è tutto vero. Specialmente i personaggi. Ma certo, perché per me rappresentare è vivere di più, è aggiungere, idealizzare, trasfigurare. Aggiungere emozione alle emozioni, passione alle passioni. Insomma, per me dove finisce la rappresentazione? La lavorazione di... L'avrete riconosciuta, era Monica Vitti, perché oggi vorremmo raccontarvi qualcosa su di lei. Attrice, sognatrice, romantica, piena di verve ironica, protagonista veramente indiscussa della commedia all'italiana. Sì, prima ancora come incompresa, depressa, struggente, musa della quadrilogia dei sentimenti di Michelangelo Antonioni. Ebbene sì, quando un regista cerca una voce e un'anima, trova Monica Vitti. Eh sì, non sono rari nel cinema incontri di questo genere, poi alla fine. È vero che il cinema italiano è stato segnato da molti incontri di questo genere e naturalmente diciamo che il regista si è ispirato all'attrice per costruire i suoi personaggi e l'attrice naturalmente si è ispirata al regista. E con la presenza stessa dei suoi personaggi e questo con tutte le conseguenze del caso. La lavorazione di un film d'Antonioni è sempre qualcosa di avventuroso, qualcosa di imprevedibile. Questo è uno degli elementi che ne fa un periodo importante della vita. Le conseguenze poi sono altrettanto imprevedibili. Per esempio, quando siamo andati a Cannes, era il mio primo festival e il mio primo film. La proiezione dell'avventura a Cannes è stata drammatica. Dall'inizio, dai titoli di testa, il pubblico sghignazzava. Non si sa bene perché, ridevano alle cose più gravi, quelle che c'erano costate forse più fatiche, in cui credevamo di più. E così per tutto il film. Pochi hanno seguito, forse hanno amato la posizione dell'avventura. Quando io sono uscita piangevo come una bambina, ero disperata, mi sembrava che tutto il mio lavoro, tutti questi mesi, in cui avrei dato veramente tutto perché fosse un buon lavoro, non era servito a niente. Avevamo tutti creduto in questo film e andava nel vuoto, andava in questa gente che rideva, in questa sala mondana. L'indomani accade una cosa imprevedibile. Scendendo dalla nostra camera, nella hall dell'albergo c'era una lista lunghissima di nomi importanti. I registi italiani, i registi stranieri, giornalisti, critici, scrittori, persone che avevano visto il film. E questa lunga lista era preceduta da alcune parole. Ieri sera noi abbiamo visto il più bel film che abbiamo mai visto ad un festival. Il protagonista. Thank you. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere. Viaggiatori viaggianti da salvare. Delle città importanti mi ricordo. Per sua stessa mano. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione, e di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, il dolore passerà. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa nel martedì femminista e lesbico, e siamo sempre Samantha e Federica, e state ascoltando sempre Quando eravamo pelose. Diamo un po' di recapiti se magari volete contattarci. Il numero di telefono è 06 49 17 50 e se volete mandarci un'email mfla@ondarossa.info. Ma parlavamo di Monica Vitti. Sì, questa attrice che si è rivelata nella storia del cinema italiano un'attrice a tutto tondo, scusatemi. Sì, stata istrionica e poi è riuscita a rappresentare entrambe le facce del cinema italiano. Sì, quella brillante e quella più drammatica, insomma. E racconta Monicelli, che, con cui la Vitti ha lavorato in grandissimi film, nonostante facesse dei film con Antonioni, interpretasse personaggi da film muto, personaggi misteriosi d'altri tempi, nella vita invece era vivace, divertente e piena d'umorismo. Ho cominciato guardando l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica dal di fuori. Io studiavo lì vicino e passando vedevo questa villa circondata da tutto un cancello di ferro e dentro tutti dei ragazzi che strillavano, piangevano, ridevano, si buttavano per terra. Sembravano dei matti, sembrava un manicomio, però sembravano dei matti felici. She's so full of things, she's so full of things. She thought they didn't even know where to put them. Stuff those, stuff this deep down, where the silence kingdom will grave down, down, down. Where the silence kingdom will grave down, down. The morning of a sight of a voice will try to make her fail. But you will not break down so easily, cause she has too many things to keep inside. She's so full of things, she's so full of things. The things she's full of could make her explode. Then pieces of her lightly soul will drop over the dance floor. And then people stare at her and scream more, more, more, more, more. The morning of a sight of a voice will try to make her fail. But she will not break down easily, cause she has too many things to keep inside. She's so full of things, she's so full of things. The things she's full of could make her explode. Then pieces of her lightly soul drop over the dance floor. And then people will stare at her and scream more, more, more, more, more. What she gets, what she gets, what she gets, what she gets. What she gets, what she gets, what she gets, what she gets. She got pieces, she got pieces, she got pieces, she got pieces, she got pieces. She got pieces, she got pieces, she got pieces, she got pieces, she got pieces. She got pieces. She got peace that she got. Thank you, merci beaucoup. Recitare, non voglio altro nella vita, solo questo. Ma mai? Come mai? Mai! Tu non reciterai mai! Passerai sul mio cadavere! Anche lei era attrice, ma non lo sapeva. Mai la polvere del palcoscenico, ricorda che corrode anche mia madre. Per Monica Vitti, giovane e piena di sogni, di idee, il rapporto con i suoi genitori e con sua madre in particolare, per la scelta di fare la carriera, di percorrere la carriera di attrice, non deve essere stato troppo facile. In fondo Monica è sempre una ragazza nata nel 1931 ed è adolescente negli anni 40, quando ancora la professione di attrice veniva spesso confusa con altre strade. A chi le chiederà se i suoi genitori l'abbiano aiutata nell'inseguire i suoi sogni, lei risponderà: in un certo senso sì, perché mi hanno ostacolata, sempre per il mio bene naturalmente, cioè mia madre non ha mai capito che tipo di lavoro io faccio e perché lo faccio, mi ha vista piangere, soffrire, disperarmi, crollare, ricominciare da capo. Lei preferiva per me forse un lavoro più semplice, voleva per me un liceo classico, un marito classico, in un taglier classico, per i borghesi quello che non è classico non è dignitoso. Dunque mia madre, vabbè, si vergognava di me. Quando parlava dei tre figli diceva: ho un figlio avvocato straordinario che ha tre coppie di gemelli, cioè, ho un altro straordinario che fa il giornale. Poi sottovoce diceva: ho una figlia attrice. E questa era come veramente una vergogna da far dimenticare, e che non poteva, perché aveva paura, voleva difendermi evidentemente. E questa mattina mi ha detto: ma cosa fai? Dico: farò un personaggio alla radio che parla di un Natale che va dallo psicanalista. Ma non ne hai bisogno. Perché ti devi mettere in questa situazione? Ma per esempio, nell'ultimo psicanalista che hai fatto, dicevi che tu facevi la propria letto fino a 5 anni, te lo giuro che non è vero, non l'hai fatta fino a 6 mesi, ma nemmeno la facevi. Ma mamma, cerca di dividere. Sta diventando tutta una gran confusione qui. Io non sono quella lì. E lei si offende e scappa via anche dalle produzioni. Sono molti film, è molto severo, sono molti film che non li vede fino in fondo, perché si vergogna. Si vergogna di certe azioni dei personaggi. Si vergogna che io faccia certe cose o mi dicano una parola scorretta. Allora dice: scusate, e se ne va. Voglia di tornare. Musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non mitico. mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Su spiaggia assolate mi parli in silenzio con la guida occhiate. Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sera all'estate. Scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Sì, le esperienze di lavoro giovano sempre, lavorare con altri registi è sempre molto, molto utile. E io ho fatto questo film in Francia e altri film comici, cosa che io voglio continuare a fare, ma desidererei proprio fare senza Antonioni delle cose diversissime, delle cose brillanti, delle cose... Il mio Vai! È Mario Monicelli che ne mette di salto la verba di attrice comica, dirigendola nella commedia La ragazza con la pistola del 1968, dove Monica appunto interpreta una ragazza siciliana che insegue per il mondo l'uomo che l'ha disonorata, con l'intento di rivendicarsi. Ci siamo molto divertiti, dichiarerà in una delle tante interviste la Vitti. Non c'è mai stata una cosa che io facessi che a lui non piaceva o che lui facesse e io non diventavo pazza da ridere. Fu quello dal drammatico al comico un passaggio naturale per quest'artista insolita e versatile, capace di impugnare i propri personaggi con un'ironia straordinaria, proiettandoli oltre il grande schermo e facendosi scudo e modello per le donne italiane. Sì, donne che erano ancora inerti davanti all'esclusione sistematica di una società maschilista, oltre che provinciale, e che le vuole comunque relegate ad un ruolo subalterno. La seconda Vitti conquisterà di gran lunga il pubblico, mettendo in ombra la prima. Il mio divertimento, la mia ambizione è anche questa, cioè far ridere gli altri. A me sembra una gran bella cosa, una cosa di cui non ci si deve mica tanto vergognare. Infatti c'è questo fatto che in Italia ogni tanto, cioè, ma adesso, ma come mai? Ho avuto anche gente che finché facevo l'alienazione, finché facevo i film di Antonioni, che sono felicissima di aver fatto, dicevano, ma come l'alienazione, ma distante, ma difficile, è poco pubblico, non può capirlo. Poi ho fatto quello che facevo in teatro, cioè cercavo di far ridere. Cioè, ma come lascia il cinema delle alte vette per ridursi al cinema? Ma come ridursi? Non lo so, è un impegno, mi sembra serissimo, un impegno. Prima di tutto far ridere la gente, che già credo che sia anche difficile, ma è anche bello far ridere, cioè dare una visione delle cose. Poi ho cercato anche di analizzare le cose che facevo, scegliere dei testi che ironizzavano, come nella ragazza con la pistola, il delitto d'onore, per esempio, che è una cosa abbastanza ridicola, che succede solo qui, quando l'ho chiesta fuori d'Italia, ho detto scusa, mi traduce in Inghilterra, delitto d'onore. La bellissima e incompresa Monica Vitti, alla fine degli anni 60 cambia decisamente registro, per trasformarsi dunque in attrice comica, interprete politicamente consapevole dell'affermazione della donna nella nostra società. Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca di Ettore Scola, lo gira nel 1970 e ancora nel 73 Polvere di stelle con Alberto Sordi. In un'intervista dirà: scoprire di far ridere è come scoprire di essere la figlia del re. Oppure ancora, l'attore ha due handicap, io ne ho addirittura tre. sono una comica cosiddetta, cioè un'attrice brillante, e allora prima di tutto si aspettano che io faccia ridere con una battuta. Poi c'è il fatto che sono una donna e poi un'attrice. Nella commedia le sue donne allegre e sospirate portano in controluce pulsioni distruttive, misogine, autolesioniste e masochiste. And the sky was made of amethyst. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how. Insomma, la Vitti insieme a Mariangela Melato è sicuramente la protagonista indiscussa sul grande schermo della trasformazione sociale degli anni 70. Una protagonista caricata dagli inconfondibili vezzi esplosivi della sua infinita energia e di tanti dubbi malinconici, come spie di un progresso difficile a digerirsi. Di qui la recitazione di una diva che non si è mai atteggiata a tale e che dalla recitazione barocca ed esasperata sa fare sa fare cifra senza esserne travolta. Proprio il registro comico rende il modello Vitti accettabile per il pubblico, non disturbante. D'altronde con gli anni anche la sua figura si arrotonda e il suo viso bellissimo, quasi nordico, e lo sguardo tagliente lasciano il posto a un ovale più tondo, più familiare, e il suo far ridere mette in secondo piano, diciamo, le sue gambe sempre bellissime, tutto quello che può essere legato a un'immagine sexy di donna, e buffa, ironica, Monica è rassicurante come le sue commedie. Lei dice sesso, c'è sesso e sesso. Lei di quale sesso parla? Spogliarsi? Ebbene no, lì non ci riesco. No, perché divento rossa, mi vengono tutte bolle. non l'ho mai ritenuto necessario, mi sembrava che non facesse parte del mio mestiere, almeno per me. Sai che una volta mi hanno proposto due tipi di contratto, anzi due tipi di compenso anche, cioè molto più alto se mi spogliavo e molto più basso se non mi spogliavo. D'altronde Monica Vitti non parlerà mai di se stessa come attrice sexy, ma si collocherà al di fuori di preconcetti e modelli che tanto spopolavano in quegli anni. Commenterà lei stessa: le attrici, diciamo, bruttine che oggi hanno successo in Italia lo devono a me, sono io che ho sfondato la porta. Il rapporto con la mia faccia, in fondo io gli devo molto alla mia faccia, certo, perché io non ero della mia famiglia la più carina, anzi ero la peggio. E anche nel cinema, quando hanno fatto i primi provini, non mica è andato bene. Sono stata aiutata, credo, dal fatto che quando andavo in una di queste feste di ragazzi, in un posto, io non ero la bella. E questo è straordinario, perché allora ti si avvicinano altri tipi di persone, allora hai la libertà di guardare. E poi io ero quella curiosa, insomma, io ero chiamata, non è bella, è un tipo. Insomma, io non ho fatto quello che ho fatto perché ero bella, perché ero curiosa, perché avevo dei difetti. E siamo sempre lì. È il difetto che hai. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Sordi nel 1982 interpreta Io so che tu sai che io so, film sull'erroneamente scontata quotidianità di una coppia romana. Il pubblico la ama e lei ci ride sopra, e con l'ironia, la riservatezza e lo stile che contraddistingueranno i suoi lunghissimi 40 anni di carriera, potrà perfino permettersi di sfidare ben pensanti, senza eccessi ma sempre con intelligenza. Osava ammettere, ad esempio, a letto succede di tutto. Eh sì, era veramente una donna indipendente che credeva nell'indipendenza delle donne e nella loro forza. Nel 1971, ospite del programma Terza B Facciamo l'Appello, condotto da Enzo Biaggi, parlando del suo rapporto con Antonioni e anche del rapporto in generale con gli uomini, disse: «Quanto Antonioni deve a me non lo so, non me lo sono mai chiesto e non desidero saperlo. Per me avere un uomo ha sempre significato anche lavorare con lui, perché non posso pensare ad un uomo che vedo solo a tavola o che vedo solo la sera, quando si va a dormire. Io devo poterlo vedere, poterci parlare e poter vivere con lui tutto il giorno. E allora questo comporta una serie di cose, di fratellanza, di amicizia, di tutto». Quando poi Biaggi, nella stessa intervista, le chiede se è vero che lei abbia fatto ricadere parte della sua rottura con Antonioni sui giornalisti, sui media, Monica, sorridendo, risponde: «Sarebbe stato troppo semplice se davvero fosse andata così. Non l'ho mai detto, è una delle tante bugie dei giornalisti. Non c'è mai l'intervistato nelle interviste, ma sempre l'intervistatore. Le cose finiscono ed in fondo Antonioni lo ha spiegato con tutto il suo cinema: la fallibilità dei sentimenti. Le cose finiscono e quando riguardano noi sono molto più dolorose». Now I don't, I used to. Yeah. Father, you saved me. sometimes in the look in his eyes. He's one of a man who's lost treasures untold. But my heart is gone, see, I took back my soul. Been totally let my creator control. The life which was his. Siete sempre su Quando eravamo veloci, siamo più o meno alle battute finali e vi abbiamo raccontato un po' di cosine su Monica Vitti. E speriamo sia stato interessante, a parte le defaillance, e divertente. E per chiudere volevamo raccontarvi così qualche chicca, sì, qualche curiosità, qualcosa di un po' fuori dalla vita quotidiana, insomma, qualche piccola curiosità su di lei, come ad esempio il fatto che nel maggio 1968 è nominata presidente della giuria al 21esimo Festival del Cinema di Cannes. E in quel periodo le contestazioni raggiungeranno il festival, le contestazioni del 68, e Monica Vitti si dimetterà dal suo incarico. Verrà imitata da tantissimi attori, tantissimi registi, tra cui ad esempio Roman Polanski, e nessun premio cinematografico in quell'edizione verrà attribuito. Anche io ho una bella curiosità per te. Pensa che a 14 anni Monica Vitti debutta in scena con La nemica di Nicodemi, interpretando una madre di 45 anni che fra l'altro perde un figlio in guerra. Niente di meno, 45 anni. Ebbene sì. E invece forse tu non sai che in alcuni dei suoi film la sua controfigura era niente di meno che una sconosciuta, ancora sconosciuta, Fiorella Mannoia. Naturalmente cantante famosissima che proviene oggi però da una famiglia di stuntman. Ah, e quindi faceva la controfigura di Monica, esatto, Vitti, pensate. Guarda, te ne voglio dare una attuale. Pare che quest'anno il Festival di Roma e Cinecittà celebreranno gli 80 anni dell'attrice, che cadono proprio il prossimo 3 novembre. E invece te ne voglio dare un'altra, sempre io, sempre riguardo a un altro Festival di Cannes. Nell'edizione del 2009 il presidente del Festival, appunto Gilles Jacob, decise di realizzare il poster del Festival utilizzando un'inquadratura di Monica Vitti dal film L'avventura. E invece secondo me questa è la più divertente. Pare che nel 1988 il prestigioso quotidiano francese Le Monde commise una clamorosa gaffe nei suoi confronti, pubblicando addirittura in prima pagina la notizia della sua morte. L'attrice, naturalmente sempre con la sua ironia, con la sua grandissima eleganza e lo spiccato senso dell'umorismo, si limitò a smentire la notizia e giustamente ringraziò i responsabili della gaffe per averle allungato la vita. Almeno questo. Invece, sempre quest'anno e sempre il 3 novembre, perché il 3 novembre tra l'altro è la data di nascita di Monica Vitti, quest'anno compirà 80 anni, uscirà anche un libro dedicato a Monica che porterà il titolo di La dolce Vitti. E sempre per rimanere cronologicamente attaccato all'88, pare che Monica Vitti sia stata la protagonista di un videoclip di Mina. La canzone era naturalmente Ma chi è quello lì, che sì, è una cover di Pino D'Angiò, e andò addirittura in onda su Rai 1. Noi ve la facciamo ascoltare. Ce l'ho già e non la devo comprare. Quel formaggio francese mi scomposta le spese, ci dovrò rinunciare. C'è la fila, la cassa e la voglia mi passa. Non ho voglia di aspettare qui. Il carrello è pesante, troppo. E mi sono anche rotta. Ma chi è quello lì? Pesante, lo sento, vero talento. Andrò all'attacco, andrò scusi lei, sì lei, mi consiglia i pomodori migliori? Sono stanca da andare in giro. Quelli lì con l'etichetta fiori. Ah, un consiglio prezioso, sa, vivo da sola e sono molto golosa. Intanto lui se ne va. No, io continuo a parlare, non mi ascolta più. Intanto lui se ne va. Oh, intanto lui se ne va. Oh, intanto lui se ne va. Ci ripenso mentre scelgo il caffè, ma poteva restare, ma la voglia mi passa, ma vicino alla cassa, non ho niente più da fare qui, sono molto delusa, troppo, mi sono anche rotta. Sono sempre tante che mi tirano su. Quello lì è una roba pesante, lo sento. Quello lì, vero talento. Ma chi è quello lì? Con le cosce come due autobotti. Quello lì vicino al banco dei prosciutti cotti. Io lo devo conoscere assolutamente. Mi scoppio la morte, non esito più. Quello lì E anche per oggi siamo arrivati ai saluti. E al momento dei saluti speriamo che vi siete divertite. Sì. Vi ringraziamo per averci ascoltato in questa prima puntata e vi aspettiamo alle prossime. Sì, e saremo qui di nuovo noi con Quando eravamo pelosi il 25 di ottobre. Mentre martedì prossimo, il martedì autogestito da femministe e lesbiche, vi aspetta su Radio Onda Rossa dalle 17 alle 23. Il che significa che per stasera vi saluta qui. E un bacio e vi auguro una buonanotte a tutti e buonanotte. Buonanotte. Sì.